9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon San Bartolomeo, che nella storia complicata della nostra modernità è collegato a un gravissimo episodio della storia francese. Si passano a fil di spada un po' di migliaia di persone, perché il problema era all'epoca quello della guerra di religione. Oggi le guerre di religione non ci sono forse più, no, ci sono ancora, altro che, è come se ci sono, fanno parte dell'intolleranza e della difficoltà del nostro tempo, e ne sappiamo qualche cosa visto che ci avviamo al decennale dell'11 settembre, ma sono anche quelle di religione, come sempre, applicate attraverso l'intolleranza alla politica. E allora oggi attraversiamo, con un po' di analisi, un po' di numeri e ospiti che ci dovranno fare, uno dei temi sui quali da qualche tempo a questa parte nel paese ci si divide con una certa passione, e questo tema ha a che vedere con il patrimonio dello Stato e i debiti dello Stato. Uno dei ragionamenti che è diventato improvvisamente molto popolare, è diventato anche molto più popolare dopo la manovra bis del governo, che testimonia che la manovra bis del governo ha qualche pecca, più o meno è il seguente: perché non dovremmo tutti contribuire con un esborso patrimoniale, con una tassa patrimoniale, a dare una bella botta per far diminuire il debito pubblico del nostro paese, che così elevato com'è ci ha messo nel mirino dei mercati e della sfiducia dei mercati, pur in presenza di un deficit pubblico molto basso, praticamente fatto solo degli interessi che paghiamo sul debito, perché per il resto è in equilibrio per la parte corrente. Perché non dare una bella spallata mettendo tutti mano nel portafoglio? Non è forse più giusto che chi ha più di più dia ancora di più allo Stato? La mia risposta è no, ma la mia risposta è come sempre minoritaria, perché vedo che oramai la patrimoniale piace da intellettuali ex politici come Giuliano Amato, a imprenditori come Carlo De Benedetti, come Luigi Abete, come Luca Cordero di Montezemolo, piace alla CGIL, e questo non mi stupisce, e francamente è legittimo che sia così. Piace alla sinistra, piace a pezzi del centrodestra che hanno iniziato a dire: ma è meglio la patrimoniale del contributo di solidarietà sui redditi sopra i 90.000 euro lordi, che tra l'altro mi pare di capire sta cadendo in Senato, e mi auguro che cada nell'esame della manovra bis, sostituito da un aumento di un punto dell'IVA. Però insomma, questo ragionamento della patrimoniale è diventato improvvisamente uno dei temi della vita nazionale. La mia risposta è no. Perché? Perché se io accendo un debito come Oscar Giannino e ho delle garanzie sul debito, cioè sono proprietario di qualche cosa che vale più del debito, non credo che voi accettereste che a pagare il mio debito foste voi, se non l'avete acceso voi. Se io vi venissi a dire: beh, per favore, datemi una mano, voi mi direste: ma perché, non hai più niente? C'hai più del tuo debito, metti mano al tuo portafoglio patrimoniale e fai fronte a quello che è giusto che si chieda a chi il debito lo ha acceso. Allora, siccome il debito, mi dispiace, adesso non so se voi mi direte che il debito pubblico è stato fatto in nome e per conto dei cittadini, no, il debito pubblico lo ha acceso il politico pro tempore, che con me, Oscar Giannino, non ha niente a che fare. Questa è la mia secca opinione. E allora la domanda diventa: nel portafoglio dello Stato c'è qualcosa che è corrispondente al debito pubblico? Vedremo che c'è, anzi supera la cifra del debito pubblico quanto c'è nel portafoglio pubblico. E allora la domanda diventa: ma perché chi ha un portafoglio pingue non lo sa mettere a reddito, non lo cede prima di mettere mano ulteriormente nel portafoglio mio, a cui chiede già tanto? Questa è la mia banale impostazione. Però avremo con i nostri ospiti un giro di voci, perché innanzitutto, proprio sulla stima di ciò che c'è nel patrimonio pubblico, di ciò che lo compone nella parte immobiliare e nella stima di ciò che si può ragionevolmente fare della parte di quel patrimonio che si può cedere sul mercato o mettere a reddito, è qui già si inizia a divergere nel nostro paese, perché c'è chi dice naturalmente che qui si può toccare questa cosa non si può toccare, ma le dismissioni immobiliari che abbiamo già fatto hanno dimostrato che è molto complicato in realtà venirne a capo. Come puoi pensare, caro Giannino, di dire che si possono fare privatizzazioni tempi rapidi per punti e punti di PIL, e poi una volta che lo Stato si spoglia per sempre di ciò che ha, come si fa poi a pensare che possa continuativamente ad avere comunque un buon debito pubblico, eccetera eccetera. Le opinioni sono diverse. Chiediamo ai nostri ospiti, che vi presento, come la pensano loro innanzitutto sulle stime di ciò che si può dismettere e su cosa farebbero se fossero loro a decidere. Chi sono i nostri ospiti di oggi? oggi. Abbiamo innanzitutto un deputato del PDL che è tra i cosiddetti dissidenti, tra quelli che secondo me meritoriamente stanno in queste settimane dicendo al governo: col tuo bel contributo di solidarietà e con troppe tasse alla manovra bis stai sbagliando clamorosamente, o cambi strada oppure non è detto che noi ti votiamo in Parlamento e soprattutto perderai i voti dei tuoi elettori, cambia strada. E questo deputato è Giorgio Stracquadanio. Grazie e buongiorno a Giorgio Stracquadanio. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Poi abbiamo Alberto Mingardi, che è il direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni ed è uno dei marchi, per così dire, del liberismo italiano. Ancora ieri una pagina intera sul Sole 24 Ore, esattamente sul punto qual è la parte di patrimonio pubblico che si può cedere e in che modalità e con quali tempi. Grazie e buongiorno ad Alberto Mingardi. Buongiorno. Edoardo Reviglio è un docente di economia della LUIS ed è in qualità di studioso proprio, è una delle persone che ha più lavorato negli ultimi anni esattamente sulle metodologie della stima del patrimonio pubblico e dell'esame comparato di come si può fare nel nostro paese per metterlo meglio a reddito. Segnalo a tutti un libro che io considero utilissimo per approfondire i temi di cui parliamo oggi. Questo libro si intitola La finanza locale nel mercato globale, è scritto da Edoardo Reviglio ed è cofirmato insieme a Gianfranco Imperatori, il banchiere che non è più con noi da qualche tempo ma che molto lavorò su questi temi, una prefazione di Carlo Zaglio Ciampi, una premessa di Antonio Maccanico e edito dalle edizioni della ONUS di Gianfranco Imperatori, quindi dovete cercare la ONUS Gianfranco Imperatori per averne una copia, ma è un volume che insegna tantissimo del patrimonio dello Stato centrale, degli enti locali e delle modalità per chiedere e per ottenere da questo patrimonio un buon, efficiente ed efficace uso. E ringrazio e saluto Edoardo Reviglio, buongiorno. Buongiorno. E Paolo Cirino Pomicino, che non ci farà mancare il suo grano di saggezza, perché in questi anni lui è stato uno di quelli che continuava ad additare il patrimonio pubblico come una fonte che era trascurata dalla politica per venire a capo dei problemi della sostenibilità del debito. Grazie e buongiorno a Paolo Cirino Pomicino. Buongiorno a voi tutti, buongiorno a te, Giannina. Allora, innanzitutto Reviglio, ci dai una mano in sintesi a ricostruire ai valori attuali che cosa costituisce il patrimonio pubblico e che cosa di questo patrimonio si può pensare di utilizzare? Sì, dunque, il valore di cui si è parlato è di circa 1.800 miliardi di euro, quindi parliamo di un valore superiore al debito pubblico. Ed è composto sia di attività finanziarie, crediti, cassa, partecipazioni, sia di attività fisse, quindi immobili, infrastrutture, risorse naturali e beni mobili di varia natura. Ora, di questo patrimonio circa, abbiamo calcolato che circa 700 miliardi, quindi meno di un circa 40%, è composto di beni che abbiamo chiamato fruttiferi, quindi potenzialmente produttori di reddito ed eventualmente disponibili per essere messi sul mercato. Questi beni del patrimonio fruttiferi sono composti di nuovo di crediti, di concessioni e quindi di flussi di cassa, di concessioni sul demanio marittimo, sul demanio minerario, sulle frequenze dello spettro delle frequenze, di immobili e di infrastrutture. Di questa parte, tuttavia, la larga parte è composta da immobili. Gli immobili pubblici valgono circa, a valore di mercato, 400 miliardi di euro. Di questi immobili, tuttavia, vanno fatte due considerazioni. Una è che sono distribuiti in circa 9.000 amministrazioni, circa l'80% degli enti locali, quindi regioni, comuni, province, enti pubblici locali, ASL, ed è un patrimonio fortemente disperso. Quindi bisogna partire da questo punto di partenza. Di questo patrimonio noi sappiamo che circa il 90-95% è in uso o direttamente dalle amministrazioni o in uso ad altre amministrazioni o enti non profit. Quindi la parte libera è circa il 15-20%, forse anche meno. Quindi in realtà gli immobili che potrebbero essere eventualmente dismessi dallo Stato possono essere stimati intorno ai 20-40 miliardi di euro. Questo per quanto riguarda gli immobili. Per le partecipazioni, anche qui noi sappiamo bene che lo Stato centrale ha alcune partecipazioni strategiche importanti, c'è discussione se possono essere dismesse o no, valgono circa 30-40 miliardi di euro. Le partecipazioni degli enti locali sono moltissime, sono cresciute a dismisura in questi ultimi anni, molto spesso sono un modo di fare finanza degli enti locali al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione. Alcune producono reddito, però in gran parte sono difficilmente privatizzabili, a mio parere, comunque bisogna poi discuterne. Ecco, questo è un po' il quadro, quindi diciamo che di questo grande patrimonio ne abbiamo una parte che vale a valore di mercato circa 700 miliardi, però è secondo me un patrimonio che richiede un grande lavoro di riordino e una eventuale dismissione graduale nel tempo, molto utile, molto importante, che potrà portare 2-3 miliardi di euro all'anno di extra proventi, soprattutto per gli enti locali, che sono ovviamente anche dopo questa finanziaria in grosse difficoltà, e un processo che dovrà durare 10-15 anni e che sicuramente potrà dare un contributo, ma non vedo la possibilità di operazioni di grosse dimensioni in tempi rapidi per ridurre il debito pubblico. Neanche per la parte del patrimonio immobiliare, ma perché il ragionamento è che il più di quel patrimonio immobiliare fruttifero è nelle mani degli enti locali ed è quindi complicato immaginare procedure che coinvolgano lo Stato centrale e gli enti locali, o in ragione del fatto che una percentuale così elevata come quella che ha ricordato del patrimonio immobiliare serve in ragione d'uso appunto alla pubblica amministrazione? Sicuramente la larga parte è in uso diretto, quindi lì o si decide che si fa il cosiddetto sale and lease back, cioè lo Stato vende gli immobili di riaffitta, oppure effettivamente gli immobili liberi non sono così tanti, richiedono. Mi sembra che gli enti locali già stanno facendo, faccio l'esempio del fondo Città di Milano, per esempio, un fondo immobiliare da 300 milioni di immobili che il Comune di Milano non utilizzava. Metà di quei proventi andranno a finanziare nuovi investimenti, metà a ridurre il debito del comune. Processi di questo genere già sono in atto, incentivi ulteriori possono essere dati, ma comunque gli incentivi già ci sono, perché le amministrazioni hanno bisogno disperatamente di fare cassa, di trovare risorse per finanziare gli investimenti. Quindi il processo da questo punto di vista può essere sicuramente ulteriormente incentivato e può portare sicuramente un importante entrate per gli enti locali anno dopo anno, quindi bene, però insomma non è che risolviamo il problema. Esatto. Vede un'opera di ottimizzazione graduale che soprattutto passa per l'acquisizione di competenze tecniche, della volontà a livello locale prima ancora che a livello centrale. Attualmente il più di questo patrimonio costa più di quello che rende, cioè nel suo libro si dice che il rendimento del patrimonio immobiliare è stimato in ordine all'1% del valore di mercato, mentre il costo di gestione è stimato per almeno al 2%, quindi ci sono amplissimi margini. Però dice è difficile immaginare una botta tale per cui può venire da questo l'abbattimento del debito pubblico. Come la pensa su questo Alberto Mingardi? Io distinguerei due piani. Dal punto di vista soprattutto della gestione del patrimonio immobiliare ha ovviamente ragione Reviglio, è una questione molto complessa, bisogna procedere nel modo più opportuno, è un tema che alla fine è nell'agenda da anni, se non ci si è mossi con la determinazione necessaria c'è anche qualche motivo. Però bisogna anche tenere presente che mai come oggi siamo all'interno di una crisi di credibilità. Quindi procedere ad alcune dismissioni ora, per esempio alcune delle partecipazioni del Tesoro, che è vero, sicuramente non abbattono il debito pubblico, ma contribuiscono perlomeno a dare un piccolo taglio che si traduce comunque in una minore spesa per interessi, quindi non frena, ma sicuramente rallenta un pochettino la spirale nella quale da anni siamo aggrovigliati. Ebbene, questo avrebbe un effetto molto importante anche sulla credibilità del Paese, cioè dimostrerebbe che l'Italia si è messa nell'orizzonte mentale di cambiare un pochettino anche rispetto al modo in cui è stata gestita negli ultimi anni. Dico le partecipazioni del Tesoro, mica peraltro, perché in questi giorni regione, nella manovra, eccetera, c'è stata una grandissima discussione sulle municipalizzate. Ma non è possibile che la politica nazionale giochi sempre allo scaricabarile con la politica locale. Alla fine anche il governo deve dimostrare di avere voglia di fare la sua parte, e questo vuol dire pensare, per esempio, alla privatizzazione della SACE, al collocamento delle quote dell'Enel, vuol dire pensare, per esempio, alla vendita dell'INAIL piuttosto che della Consap. Nessuna di queste cose ovviamente abbatte il debito pubblico dalla sera alla mattina, però potrebbero essere segnali importanti, in primis di una volontà politica diversa, di avere a che fare col grande problema che il debito pubblico, include questo problema, è la dimensione dello Stato italiano. Uno degli argomenti per i quali in Italia si esita a questa nuova determinazione nel procedere sulla strada delle dimissioni, come invocato Alberto Mingardi, è il bilancio delle operazioni patrimoniali pubbliche fatte negli anni successivi alla crisi dell'inizio degli anni 90. Io ricordo tutto che noi abbiamo alle spalle un'esperienza intensa di operazioni sul lato patrimoniale pubblico, perché nei primi anni 90 fino a metà degli anni 2000 noi abbiamo realizzato molte operazioni straordinarie patrimoniali. Abbiamo fatto privatizzazioni di partecipazioni e di aziende per l'equivalente di 140 miliardi di euro in quegli anni. Abbiamo cartolarizzato crediti per più di 25 miliardi di euro. Abbiamo venduto attraverso i veicoli SCIP 1, SCIP 2, SCIP 3. E questa esperienza frena molto, perché è stata molto criticata, le dismissioni immobiliari nuove, e però abbiamo fatto alienazione di immobili per un'altra ventina di miliardi. Abbiamo venduto le licenze UMTS con le telefoniche e entrarono quasi altri 14 miliardi di euro. Però il più, dicono, è ma per l'ansia di dismettere, per le esigenze di cassa, si fecero poi tanti disastri, vedi l'inefficienza dell'eccessivo debito che continua a gravare su Telecom Italia, i regali di monopoli naturali dal pubblico a soci privati che ne estraggono valore invece di investire in attività in cui si è più aperti alla concorrenza, come le autostrade, e così via, e così via, e così via. E questo è un potente argomento che dice: ma che cavolo volete privatizzare ancora? Paolo Cirino Pomicino, questo freno da una parte, che la critica è sempre benvenuta su come le privatizzazioni sono state fatte, ma i numeri dall'altra parte degli attivi patrimoniali a fronte di una pressione fiscale così elevata e a fronte di chi dice mettiamo anche una patrimoniale in più, dal punto di vista della sua esperienza come si bilanciano e come se ne esce? Pomicino? Sì. Ma con chi parlo? Con lei. Sì. Ecco, dunque, due questioni. Sul piano immobiliare, lei lo ha ricordato, io lo sostengo da circa 7 anni, e nel 2007, finanziaria 2008, ero alla Camera dei Deputati e ho presentato un emendamento che naturalmente nel centro-destra e nel centro-sinistra hanno apprezzato. Il dato vero è il seguente: c'è una parte immobiliare che va restaurata, rivisitata, modificata la destinazione d'uso per avere un appeal sul mercato. Tempi lunghi, come ha detto Reviglio, come ha detto anche il professor Mingardi. C'è un'altra parte, gli immobili strumentali, che sono invece rapidamente utilizzabili, come hanno fatto tutte le grandi multinazionali che, volendo investire nell'economia reale, hanno fatto uno spin-off immobiliare dei propri immobili strumentali. In parole povere, se noi vendiamo 100 palazzi da 100.000 metri quadrati cada uno, che sono gli uffici periferici dei ministeri o anche dei ministeri a Roma, noi potremmo avere 10 milioni di metri quadrati, che faccio il conto della serva, a 3.000-3.500 euro per metro quadro, abbiamo 30-35 miliardi di euro da poter ricavare in tempi rapidissimi. Perché? Perché saranno gli immobili locati dalla pubblica amministrazione e quindi appetibili. È vero che ci sarà poi sul conto economico il canone, ma il canone è del 5% a fronte del 95% che incasseremo da investire, ripeto, per lo start-up dell'economia reale. Perché queste cifre non hanno niente a che fare con l'abbattimento del debito, hanno a che fare con lo start-up dell'economia, perché sono soldi freschi extra bilancio che potrebbero venire e essere immediatamente corrisposti nelle varie iniziative economiche. Invece un altro dato, Giannino, sul quale io voglio ritornare. Io anche sono contrario alla patrimoniale perché è un input recessivo, la patrimoniale come lo fu la tassa per l'Europa. Io sostengo però che c'è un'altra cosa, che c'è un'altra possibilità, un contributo volontario incentivato dei 4 milioni e mezzo di contribuenti fatti da liberi professionisti, titolari di aziende individuali, società di capitale e società di persone. Sono 4 milioni e mezzo di contribuenti. Se si fa un ragionamento con un contributo minimo, io non voglio dettagliare nel termine, ma con un contributo minimo, con un premio incentivante, una sorta di concordato preventivo, non è il condono, è una sorta di concordato preventivo, noi possiamo avere un'adesione di oltre la metà di questi 4 milioni e mezzo di contribuenti, recuperando alcune centinaia di miliardi che in quel caso sì servirebbero ad abbattere il debito e garantire un risparmio annuale di interessi molto significativo. Lei dice che da un concordato preventivo rivolto a queste tipologie di contribuenti, se ho capito bene, si possono ricavare fino ad, ha detto, alcune centinaia di miliardi. Esatto. Fino a 200 miliardi. Non so nel dettaglio perché poco devo prendere un treno, quindi devo lasciare. Posso solo aggiungere una cosa. Se è una soluzione, ce ne possono essere altre, appunto la patrimoniale obbligatoria, eccetera. Però noi dobbiamo smettere di immaginare, di svuotare il mare del debito con il secchiello della lotta al deficit. Esatto. Noi dobbiamo aggredire il debito pubblico, perché questo ci consente di risparmiare e di ridurre anche il deficit per il risparmio della spesa degli interessi, mentre al contrario la dismissione degli immobili strumentali può consentire in tempi rapidissimi la possibilità di avere 30 miliardi per lo start-up della nostra economia, mentre sono totalmente d'accordo con Reviglio e Mindardi che c'è bisogno di mettere mano, in particolare per gli enti locali, a tutta una serie di valorizzazioni e di ottimizzazione del proprio patrimonio immobiliare nazionale, ad esempio le caserme, se chiede si rompere una caserma se non c'è la destinazione, il cambio di destinazione d'uso. Allora c'è bisogno assolutamente di fare questo tipo di ragionamento che può consentire appunto di recuperare in tempi rapidi quello che hanno fatto, lo dico, le multinazionali. L'Eni ha fatto lo spin-off immobiliare perché doveva investire e non voleva più indebitarsi. Questo è quello che deve fare lo Stato italiano. Grazie anche a Paolo. Io chiedo scusa se prego. E intanto noi andiamo in pubblicità e poi ricominciamo dall'analisi politica della fattibilità, dell'opportunità per tutto questo e del fatto che il centrodestra non preferisca queste strade ad altre, come invece l'aumento del prelievo sull'aliquota marginale dell'IRPEF, che è la strada incredibilmente sin qui scelta, a mio giudizio, per la manovra bis. Eccoci tornati in studio. Allora, onorevole Stracquadagno, cosa si può immaginare rispetto alla manovra bis che di tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino a questo momento possa essere recepito, e perché secondo lei il centrodestra è diventato così restio negli anni alle dismissioni, alle privatizzazioni e ha scelto invece la strada dell'aumento della pressione fiscale, malgrado tutto quello che diceva agli elettori da 17 anni a questa parte? Dunque, iniziamo da questa seconda parte della domanda. Il centrodestra, io ho indicato oggi in un'intervista alla Stampa i rischi che sta correndo il governo ma anche il paese nell'assumere una manovra fiscale che è figlia dell'emergenza ed è per larga misura su 45,5 miliardi di manovra triennale, è fatta per 35 miliardi di incrementi fiscali e per una parte di tagli concentrati per esempio agli enti locali che rischiano, come ha spiegato molto bene ieri Franco Becchi su Libero, di tramontarsi in una ulteriore sottomanovra fiscale, perché gli enti locali ai quali noi pratichiamo tagli degli trasferimenti potranno tentare di rimediare alla mancanza di risorse, a loro volta trasferendo questi tagli su imposte sui cittadini. Quindi noi rischiamo di fare un salasso fiscale che ha come conseguenze una depressione dell'economia reale. E questo rischia di essere un pessimo segnale ai mercati della nostra strutturale mancanza di capacità di pagare i nostri debiti. Perché quello che i mercati oggi ci chiedono non è il pareggio di bilancio nel 2013 tout court e a qualunque condizione, ma di dimostrare che il nostro debito pubblico è effettivamente lo Stato è in grado effettivamente di ripagare i suoi creditori nel tempo secondo le obbligazioni che ha assunto. Allora, venendo ai temi che abbiamo affrontato, i temi in qualche misura si intrecciano, perché il punto centrale, io direi, è questo. Noi abbiamo, col federalismo fiscale, avevamo stabilito che il demanio venisse trasferito largamente a regioni, province e comuni, in funzione delle loro funzioni, appunto, delle loro funzioni, e con esso anche eventualmente quote del debito pubblico laddove questo fosse possibile farlo. Perché dobbiamo rispondere innanzitutto a una domanda: chi fa cosa? Che è la domanda centrale che ci poniamo almeno dal 94, dagli anni 90 a oggi, per capire qual è il perimetro dell'azione pubblica e come questo deve essere sviluppato. Come impatta questo sul nostro ragionamento? Prendiamo per esempio il patrimonio immobiliare. È giusto quello che ha detto il professor Reviglio: per l'85% oggi è in utilizzo alle varie funzioni pubbliche, ai vari enti pubblici che lo detengono. Ma dovremmo andare a analizzare come esso è in utilizzo. Per esempio, una certa quota parte, non censita e non censibile o difficilmente censibile, grava sui cosiddetti costi della politica, fa parte dei cosiddetti costi della politica, cioè viene ceduto dai comuni essenzialmente a enti, associazioni, organismi di partito, collaterali ai partiti o in qualche modo collaterali a funzioni di carattere politico, a prezzi che sono irrisori, affitti che sono irrisori e che molto spesso non vengono pagati e vengono sanati poi al termine delle locazioni con piccole somme. E questo è uno dei punti chiave dei costi della politica non censiti che dovremmo affrontare. In secondo luogo, molte delle funzioni pubbliche che noi pensiamo sia utile siano privatizzate e messe su mercati aperti, penso a tutte le utilities locali, utilizzano pezzi del patrimonio immobiliare pubblico. E quindi, se noi pensassimo al trasferimento di pezzi interi della pubblica amministrazione, di funzioni intere oggi nella pubblica amministrazione, verso il mercato, questo dovrebbe comprendere non soltanto l'azienda, ma il personale che ci lavora e i suoi contratti collettivi di lavoro, e inoltre anche i mezzi, il patrimonio pubblico di immobili dove queste funzioni vengono esercitate. E a quel punto, per esempio, le aziende di servizio pubblico locale, che dovrebbero andare secondo me sul mercato come anche le grandi imprese, potrebbero fare quegli spin-off immobiliari di cui parlava appunto Cino Pomicino. Cioè, se noi ridisegniamo il perimetro dello Stato e delle sue funzioni, vediamo che abbiamo una larga fetta di privatizzazione che si portano insieme l'una con l'altro e non possiamo che esaminarle insieme. Certo che le esaminiamo separate per ragioni, come dire, di semplicità di calcolo e di ragionamento e di ragionamenti sulle grandi cifre, ma quello che dovrebbe essere, secondo me, necessario è cogliere l'occasione della crisi per evitare di rincorrere il deficit e di porci il problema seriamente e stabilmente del debito pubblico, perché non dobbiamo dimenticarci che le nuove regole di governance europee ci impongono di arrivare al 60% del debito, cioè i parametri di Maastricht, riducendo il debito di un ventesimo ogni anno. E se noi non abbiamo una strategia che insieme riduca il perimetro della spesa pubblica, non possiamo pensare di un equilibrio al 52% della spesa sul PIL, è un equilibrio che riduce sempre di più il PIL e quindi aumenta sempre di più la percentuale della spesa pubblica se questa è invariante o crescente. Quindi dobbiamo raddrizzare il tema della crescita, raddrizzare il tema del perimetro dello Stato, quindi del chi fa cosa, e a questo punto generare un circuito virtuoso che è quello che il centrodestra aveva proposto agli elettori negli scorsi anni. Non l'ha fatto perché? Temo perché abbiamo sempre rincorso le emergenze, abbiamo sempre avuto, come dire, poca chiarezza negli obiettivi anche nelle alleanze di governo, bisognava imporre alcune cose sin dalla stesura dei programmi. Io ho partecipato alla stesura del programma del 2008 e devo dire che per esempio sul tema delle province fu lasciato, dopo una discussione di alcune ore, al tavolo del programma tra il presidente Berlusconi, Roberto Maroni, Maurizio Gasparri, io che modestamente facevo da segretario di redazione di quel tavolo, una discussione infinita che lasciò nell'ambiguità quel testo dove si disse che avremmo abolito le province inutili. Qualcuno le poteva leggere come le inutili province e qualcun altro quelle poche province che non è utile avere. Il risultato è che le province ci sono tutte e anzi nelle legislature in cui noi abbiamo governato sono aumentate, perché non c'è dubbio che se non c'è chiarezza sui programmi e se ci sono larghi margini di ambiguità anche all'interno delle stesse formazioni, prevangono poi le spinte localistiche, la tendenza alla spesa facile e l'acquisto del consenso politico attraverso la spesa pubblica, che è il vero problema strutturale del Paese. Lei non crede che anche nel centrodestra, nei vertici del centrodestra, negli apici, il ministro dell'economia, il ministero, si sia in realtà rivelato che in questi anni la vera convinzione è quella, in questo totalmente uguale alla sinistra, che è meglio non cedere quasi nulla di ciò che sta nel perimetro pubblico, perché il problema non è lì, per così dire. Il problema si risolve coi flussi. Lei dice inseguire l'emergenza di volta in volta, però il problema è appunto guardare attraverso l'ottimizzazione, cioè l'aumento delle entrate fiscali, la rincorsa a una spesa corrente che è cresciuta vertiginosamente, bruciando tutti i 7 punti di PIL di minore tasse di interesse grazie all'euro che abbiamo avuto in questi 10 anni. E l'altra prospettiva è quella invece di dire no, qui c'è un problema di un perimetro troppo esteso, troppo inefficiente. Nei libri, nel libro che ricordavo del professore Edoardo Reviglio, si fa riepilogo per esempio del patrimonio pubblico che è l'edilizia residenziale locale nel nostro paese. Stiamo parlando di 1 milione di alloggi, quelli degli ex istituti autonomi case popolari, che fanno capo a 110, il numero attualmente è così elevato, 110 enti pubblici economici territoriali. A questi si aggiungono altri 400.000 altri alloggi di edilizia popolare che sono di proprietà diretta dei comuni, quindi 1.400.000 alloggi, un altro smisurato patrimonio immobiliare. La cosa pazzesca è che questo patrimonio immobiliare ha tassi di morosità superiori al 50%, e che ha costi di manutenzione che sono il doppio del reddito che produce questo patrimonio. Allora, in condizioni di questo tipo, non pensare a ondate di alienazioni, visto che oramai più del 60% di questo 1.400.000 di appartamenti oramai è edilizia non più popolare ed è abituato da coloro che non ne avrebbero diritto, ecco, non pensare a mettere col tempo necessario in cantiere un'operazione di vendita totale di questo patrimonio, secondo me è delittuoso che non lo faccia il centrodestra. Lei che pensa che in questi giorni ci è riservato al Senato, alla Camera, una specie di sorpresa positiva per quello che riguarda la manovra, il contributo di solidarietà che sparisce o non sparisce? Pensa che nel centrodestra c'è un rinsavimento possibile oppure dopo 17 anni no? Guardi, lei ha messo il dito sulla piaga e l'esempio che ha fatto anche del patrimonio pubblico abitativo dei comuni, e che è largamente non solo inefficiente ma distribuito in modo tra i più iniqui che io conosca, perché chi ne ha bisogno non ha accesso e chi non ne ha bisogno lo presidia anche illegalmente in molte aree del paese, cioè prendendosi letteralmente le chiavi delle case e occupandole senza alcun titolo, cioè nella totale illegalità. E questo è accaduto per anni anche a Milano, la città dove io vivo, e sembrava un fenomeno inestirpabile. Ci è voluto un forte intervento della Giunta Albertini a suo tempo per mettere un parziale freno a questi fenomeni. Ma il punto chiave che lei ha colto è questo: nel centrodestra si sono sempre confrontate due visioni, una secondo la quale la spesa pubblica italiana non è compressibile, non può essere compressa nelle sue caratteristiche di fondo, perché la struttura legislativa italiana va bene com'è e quindi anche il livello della copertura dello spazio di intervento pubblico va mantenuto come tale, perché esso rappresenta un importante modello di welfare, cosa che per esempio a mio avviso è sbagliata. E chi ritiene invece che il compito di uno Stato sia quello di far funzionare al meglio la concorrenza in tutti i settori, perché è questa che fornisce i migliori servizi al minor prezzo. Su questa grande partita che si è svolta in questi 17 anni nel centrodestra, direi che noi abbiamo perso e l'altra visione progressivamente ha vinto. Per esempio, io non amo gli attacchi personali, ma il ministro dell'economia ha fatto benissimo il suo mestiere nel primo triennio di questa legislatura, frenando la crescita incontrollata della spesa pubblica e cercando di limitare al massimo gli automatismi che la spesa pubblica, così come è strutturata oggi, ha. Io sono sempre stato un fiero avversario di quelli che dicevano che Tremonti dovesse allentare i cordoni della borsa. Io dicevo che doveva ridurre la dimensione della borsa addirittura, non soltanto tenere i cordoni molto stretti. Ciò nonostante, è successo che adesso che siamo in una situazione, come dire, in cui gli effetti della crisi del debito mondiale si manifestano innanzitutto sugli stati e sugli stati più indebitati, proprio il mantenere questa struttura della spesa pubblica si rivela il nostro problema. Quanto al contributo di solidarietà, perché penso che molti ascoltatori, come dire, siano anche in ansia giustamente per i loro redditi e per le loro prospettive di futuro, perché noi qui si fa un'operazione molto forte e determinata su una platea di contribuenti che già pagano moltissimo, perché io vorrei ricordare che quando nella scorsa riforma fiscale noi mettemmo un po' mano alle aliquote, nella legislatura in cui eravamo al governo, 2009-2006, dicemmo che l'aliquota massima la fissavamo al 39 con un transitorio contributo di solidarietà del 4% che la portava al 43. Quel transitorio è diventato definitivo, si chiamava già allora contributo di solidarietà, e poi nella legislatura successiva è sceso anche per i bassi, nel senso che le riduzioni di fisco che avevamo portato anche ai redditi più bassi sono stati revocati dai governi di centrosinistra. Ora il rischio vero di questo contributo di solidarietà, che dovrebbe durare 3 anni fino al pareggio di bilancio, in realtà è una certezza, ma poi scende anche per i rami bassi della tassazione, esatto. Perché è la solita costante operazione, cioè andare a prendere i quattrini dove si trovano e dove si vedono. Allora, su questo la nostra battaglia oggi non solo assume un valore per impedire questa misura e andare su almeno una misura strutturale, una, ne stiamo proponendo molte, ma una ci basterebbe per segnare la direzione, per cambiare la direzione di marcia. Ma il vero rischio è che noi con queste operazioni, fatte tutte a suon di tasse, abbiamo una riduzione ulteriore della crescita e l'aggravamento di tutti i problemi dove dovremmo mettere riforme, compreso per esempio quello dell'età di pensione, compresi quelli della gestione del patrimonio pubblico e della sua non redditività, cioè della sua onerosità, e così via. Se non si mette mano, i problemi si aggravano e il rischio è che abbiamo un rischio democratico. Il governo viene, secondo me, se i mercati, come già dicono, che la manovra è insufficiente, inadeguata, perché chi darebbe credito a un indebitato che continua a spendere allegramente e cerca anzi di trovare nelle tasche di tutti i familiari altri soldi da spendere e magari di spenderli al gioco, cioè non a un qualcosa di produttivo ma a una spesa continua. Nessuno darebbe maggior credito, quindi il nostro credito aumenta il suo rischio, e questo lo ha detto l'altro giorno Bloomberg, ma su tutti gli osservatori internazionali stanno dicendo che con questa manovra il rischio debito dell'Italia aumenta. I mercati ci bocceranno, a quel punto sarà inevitabile dover intervenire e la crisi di governo è lì, costruita dietro l'angolo, e la crisi di credibilità del paese è addirittura più elevata, perché ci saremmo giocati noi del centrodestra la credibilità totale, il paese la credibilità sulla capacità di riformare, e quindi io penso che su questi argomenti oggi che abbiamo le riunioni dei diritti di gruppi insisteremo tutti quanti perché almeno quella misura, ma anche altre, siano sostituite da misure strutturali vere che abbiano a che fare con la riduzione del perimetro dello Stato. Io penso che senza questa elementare determinazione alla discontinuità rispetto a ciò che il centrodestra ci ha fatto vedere all'economia negli ultimi 17 anni, si perde inoltre il titolo di credibilità agli occhi dell'opinione pubblica per rappresentare un pensiero che dica il perimetro pubblico è troppo esteso, troppo inefficiente, grava troppo sui conti annuali di parte corrente del reddito nazionale. Chi pensa che ci sia un futuro in questo paese per chi vuole meno Stato e più efficiente deve essere discontinuo. Non è più tempo di farsi tappare la bocca e mettere il dito sul pulsante a favore di chi in questi 17 anni ha fatto l'opposto di ciò che diceva, e lo ha fatto come e più della parte politica opposta, che invece apertamente diceva che la sua via è quella degli aggravi fiscali, perché bisogna tutti compartecipare. Quindi la mia opinione è che oggi, senza questa discontinuità, andrete tutti a casa. E non vi potrete lamentare di questo, e se qualcuno si batte per la via liberale lo farà senza avere più niente a che fare con voi, perché ovviamente questa è un'area politica e culturale che vive di una vita propria, al di là delle leadership personali appannate e terminate, e al di là delle ambizioni di capire così bene il mondo quando, spiegato così bene cos'è il mondo con i videogiochi, in realtà ogni giorno ciò che viene detto viene contraddetto da ciò che i mercati con forza propria dicono del paese che hai governato in questo modo. Come la pensi? Sono i nostri ascoltatori, sentiamo qualche telefonata, cominciamo con da Bergamo, ci chiama Beppe, prego Beppe. Pronto? Eccoci. Buongiorno, allora io parto da un presupposto, parlando di privatizzazioni stiamo parlando di un patrimonio che appartiene a tutti, che è pubblico, non è che ci sono i cittadini da una parte e lo Stato dall'altra, il patrimonio è in minima parte anche mio, è stato costruito grazie a chi, alle generazioni che per anni, decenni hanno lavorato. Ha espresso la sua opinione. E detto questo? Allora, detto questo, subito si pone una questione politica. Chi negli ultimi 17 anni, con il centro-sinistra, i conti pubblici erano tenuti sotto controllo, comunque in maggiore controllo rispetto agli anni del centro-destra. La crescita con i governi di centro-sinistra, ivi compresi il secondo... Io la interrompo perché non le ho chiesto oggi a chi interviene opinioni politiche sul centro-sinistra e sul centro-destra. Io rispetto, naturalmente lei sa perfettamente che questa storia è pura propaganda, le dico pura propaganda perché quando è arrivata la sinistra ha fatto aumento di spesa corrente come la destra, uguale alla destra in questi anni, mi dispiace dirlo, e ha aumentato le tasse come la destra, peggio della destra. Noi stiamo parlando però delle dismissioni del patrimonio immobiliari o mobiliari. Su questo Beppe, lei che pensa, bisogna farlo o non farlo? Io penso che si debbano fare, ma si debba avere una questione politica, nel senso che chi è al governo deve essere credibile, nel senso che deve essere lontano da gruppi, consorterie, interessi, persone che, okay, gruppi che comunque hanno l'interesse a mettere le mani nella marmellata senza pagare il giusto. Beppe, però nel chiudere le ricordo che le privatizzazioni di cui siamo diventati così critici, quelle degli anni 90, le fecero i governi tecnici, eppure poi alla fine, da Telecom Italia alle concessioni autostradali e così via, il rischio in un capitalismo asfittico come quello italiano non è bastato certo il fatto di non avere Ciampi televisioni di cui è proprietario a evitare che finisse come è molto probabile che finisca. Il problema non è quello di credere che gli interessi non esistano, questo è il mio punto di vista, ma semplicemente che siano trasparenti, che sia evidente che magari si danno concessioni a chi ha interessi altrove e si concentra su quelle attività perché sono meno concorrenziali e ha facile redditività. Io non mi scandalizzo che avvenga, io ho preferito comunque che quelle privatizzazioni avvenissero negli anni 90, perché hanno dimostrato che innanzitutto si poteva privatizzare molto in poco tempo, incassando molto e impedendo che lo Stato continuasse a avere nelle mani cose di cui non sapeva che uso fare. Perché voi dite che il patrimonio è di tutti, io non sento che sia patrimonio mio tutta questa roba qua, io non capisco perché devo considerare il patrimonio mio roba che viene messa nelle mani di manager il più delle volte incompetenti, amici degli amici, e dove vige la logica dei camerieri e degli amanti. Patrimonio mio? No, io la vivo come una cosa creata con l'estorsione ai miei danni, l'estorsione e la rapina ai miei danni, perdonate, io non la vivo questo ottimismo collettivista italiano per cui vi sentite tutti come comproprietari di qualche cosa che è pubblico. Io quando lo vedo mi arrabbio, perché vedo che è tutto sangue del nostro sangue ed è affidato molte volte a persone di cui io non ho alcuna stima tecnica. Massimo da Modena, come la penso? Buongiorno, io volevo dire che secondo me si parte come sempre al rovescio, cioè se c'è una camera d'aria che perde si chiudono i buchi, poi si gonfia, e qui invece sempre gonfiamo con i buchi aperti, va diminuita la spesa pubblica, perché così non c'è soluzione. ho sentito prima Fumicino che parla esattamente da politico che ci ha portato nella fossa, come, cioè lui dice alieniamo degli immobili allocati, incassiamo soldi e paghiamo il 5%. È come fare un debito al 5% di interesse, secondo me è folle. Cioè, no, un momento, non è fare un debito, perché tu incassi sul valore patrimoniale il 95% e di anno in anno al massimo rispendi il 5% di canone, quello non è fare un debito, come sarebbe il 5% di canone? Io quanto pago sulla spesa pubblica di interessi? Meno del 5%. Non capisco questa cosa. Cioè lei sostiene che perché non bisogna vendere anche gli immobili quando sono in destinazione d'uso? Io penso che bisogna pensare in termini, cioè se io sono un privato e a me fare un debito mi costa meno del 5%, vuol dire che se io vendo delle cose e dopo pago il 5%, io ci sto rimettendo, non ci sto guadagnando. E no, questo guardi, lei per rimetterci dovrebbe avere un'estrazione di reddito superiore al 5% annuo su quel bene immobile, e come le abbiamo ricordato invece attualmente il patrimonio immobiliare costa più di quello che rende, quindi da questo punto di vista per la parte corrente, cioè gli interessi annuali, sarebbe comunque un avanzamento rispetto a come oggi viene gestito il patrimonio pubblico. Quindi guardi che il suo ragionamento tecnicamente è fallace, mi piace farglielo notare, ma è corretto invece dire il contrario. Allora, avete visto che dall'Istituto Bruno Leoni con Alberto Mingardi che ci indica la necessità di una discontinuità forte del ritorno alle dismissioni mobiliari e immobiliari, anche le società, anche l'Enel, anche l'Eni, diciamolo fuori dai denti, noi che siamo pochi a pensarla così, lo diciamo così. Il professor Edoardo Reviglio continua a dirvi La finanza locale nel mercato globale, un libro che vi consente di approfondire in centinaia di pagine tutto quello di cui abbiamo parlato, ed è l'idea che invece la spallata non può venire, bisogna mettere al reddito con un po' di lentezza. Giorgio Stracquadanio vi ha promesso che si vedrà al Parlamento discontinuità rispetto alla manovra bis, io gli dico auguri e lo spero, ma non ci credo. In definitiva, le dismissioni mobiliari e immobiliari si possono fare e si devono fare. Se la politica vi dice il contrario, secondo me è solo perché vi vuole ancora mettere le mani nelle tasche. Pensateci. Intanto Linea Generale Radio, appuntamento a domani.